Bolognese. Infatti dice che c'è il fulmine, io ho passato, l'ho visto ancora in casa, e dice che c'è il fulmine, mi era boccato anche la porta. Ma ti stai dicendo quello dei quattro semafori? Ah, quello c'è i due cagnolini? Eia! E quando deve scendere il fulmine? Se un mese fa lo sei trapassino che è entrato. Ma da poco è successo questo particolare, questo parlare dell'altra notte, che mi è stato un problema. Devo essere quei giorni scorsi, capito? Ho capito, deve essere quella notte che ha fatto un tuono che ci è tremato tutto. Deve essere quella notte lì, deve essere. Ehi, quella notte! Si aveva fatto la sale già, e lui gli ha incendiato tutto, il banco baracchino si è trovato, è tranquillo che lui c'ha gli apparecchi, ce l'avano sempre attaccati. Allora l'ha bruciato tutto, l'ha bruciato, camera ecco, baracchino, c'aveva un coso, un 200 canali sembra che c'ha, AMSM, chi doveva fare, tutto l'ha bruciato, non ti preoccupare, si è fatto il coso, il pezzo, si è passato mentre la televisione, si è stata presa di casa sua. Corrente, Graziano. Io pensavo che fossi vento gli altri una puntata, perché sono passato e l'ho detto a Graziano, invece Graziano mi stava dicendo che è sceso un fulmine, capito? E speriamo che non sia successo niente, capito? Per l'antenna, ma ti veglia, detto, è sempre la volta, ti veglia da parecchio attaccato, stai tranquillo che l'ha disintegrato, c'è tanto, speriamo di no, così è Graziano. E così mi ha detto mia nipote, a me io non me ne racconto, ma mia nipote, l'altra sera, quando prima ti ho detto io, dopo mi hai confermato che tu lo stava dicendo anche tu alle porti. Che va, purtroppo. Ma un mese fa, anch'io però adesso, deve essere quei giorni scorsi, l'anno scorso che abbia fatto quel po' a che c'è proprio quello. Bravo, altro riprendi, dai. Claro, perché io mi sono svegliato proprio quella notte, ho sentito una cosa potente proprio era, e io siccome faccio parte proprio da quella parte là, ho visto tutto il cielo illuminarsi, ha fatto un fuoco tremendo, e quella notte lì è successo tutto, sicuramente gliel'ha presa in pieno, perché è in linea d'aria, sono vicino io, dai. Adesso quella zona lì. Sì, quando ha fatto guerra in pieno, forse, prima ha fatto guerra in pieno, poi in pieno, quella notte. Oh, capa, io ci ho attacco sempre, no? Non me lascio attaccarti. Butto il piede in terra e lo stacco l'apparecchio, mi amare di venga. Ha la parabola non l'ha toccata, perlomeno, ha aggiunto la parabola, c'è? Come si chiamano? Oh, io non l'avevo tolta con la parabola, poi, l'avevo regalata a Manuele, tutto qua, motore, tutto l'avevo regalato, tre cose, tutto, sicché non l'avevo utilizzata, l'ho tolta, e lui ce l'ha ancora, Sì, ma il non era per il barattino, no? Quando adesso installi le parabole, con le normative nuove vogliono collegarsi con la massa a terra, se no non le puoi collegare, capito? Perché attivano i fulmini le parabole, quelle, sia quelle della 90, figura che lui ci aveva il 21 lì da 1,50 m. Evidentemente lui ci aveva collegato la corrente con il motore, ha beccato in pieno, perché la parabola è da sotto la mantova. Quindi ha beccato in pieno la mantova e anche la parabola, dove dico io, e lui mi ci ha detto tutto quella notte. E penso che se si è bucato il tetto, come dici tu, è entrato in casa sua e ha bruciato tutte le prese, compreso il televisore, il frigorifero, la lavatrice, gli amore. Sì, gli ha fatto un periodo a lui. E fa ventaletto ne va a prendermi. Guarda che sentire un ciocco del genere dentro casa è e questo fulmine che tenta nello fuoco è un casino. Quindi io penso che lui la notte non ha dormito nulla, e sarà ancora così, sarà senz'altro. Ma adesso è non ha pigliato. Sale, però più quasi vicino alla molla, dice. Capito? E ho l'aperto, l'ha già pescata appena appena, giù lì che gli ha segnalato, va. E così deve essere il tuo, se l'apre leggermente piegato, ti segna di meno, capito? No, non è piegato, no. Non è piegato assolutamente. Proprio sicuramente è proprio il motorino, è quello del magnete, così. Sì, ma sono spazi, spazi che... C'è quello che mi ha dato a Torino, cazzo, nelle Savietta Plus, come quello c'ha due, c'hai il motorometro e più quello della radio, no? E se me l'ha bloccato uno ha stesso, sono spazi che prendono e allora me l'ha partito anche quello. Meno male me l'ha dato a Torino e adesso già sta funzionando, quello lo attacco alla Fayette con le Savietta Plus. Lei già sta funzionando bene. Capa. Sì, sì. Molte volte che la spezzerina, queste cose si rovinano. Funziona, questa volta la salì funzionava bene. Non c'era nessun difetto. E anche noi non ogni tanto ci sentiamo male, anche le influenze, anche i sassi. Si guasta muove e si muove guasta e due, e cazzo, non so come c'è la questione, purtroppo non si. Avvio. E se vuoi si capisce già che si freati, cazzo, che ti rompo il cazzo, capito? Poi non è tanto fatto a ciappare un vizio, capito? A ciappare i pezzi proprio originali è un po' difficile, capito? Magari quando li trovi ti fanno pagare la barca di quattrini. Perché è degli anni 70, cavolo, non lo trovi tu, un coso del genere. Può anche darsi, capito? Può anche darsi che bisogna stare sempre il furricente al computer, capito? Bisogna stare sempre il furricente, ma da stare a parlare in 5 il computer. Prima non si riusciva a trovare niente, mentre adesso ci abbiamo cominciato in questa roba e per cui già si possono trovare certe cose, capito? Per cui il progetto è progressivo. Già si possono trovare. Una volta mi hanno detto che una persona ce l'ha, però bisogna chiederglielo. Ce l'ha che non lo usa, se è proprio la teoria pure, capito? Così non bisogna trovare la vita per un po' se si riesce a trovare questo strumento. Ma siccome è roba tutta fatta fuori, non tutti i pezzi del ricambio trovi, non sempre, capito? Però il progetto si può dare già fa, dai. Che si può trovare. Noi siamo arrivati, dai. Ci sentiamo dopo. Va bene, ciao, ci sentiamo. Mario. Natalie, dove te la trovi? Luigi. Attento, Lessi, canale 5, Splatter, cambio. Attento, Lessi, ma ci sei. Attento, bombolino, bombolino. Buongiorno, buongiorno, e allora? Ora sono qua. La gara. E poi questi già mette quegli affari. Salino. Sicuramente siamo anche vicini. perché con Gio Maria le linee radio sono vicine. Poi non so tu dove sei. Più o meno lì sono. Capo, dai, alla linea radio sono vicini, io sono qua nella zona motorizzazione, capito? Ah, c'è Don Roger qua, dai. Capo. Comunque, sul 45 sono passato, ho fatto chiamata a Luigi, purtroppo mi ascoltava bene anche lì nelle coordinate sue, evidentemente sto uscendo bene. Sì, no, sto uscendo benissimo, arrivi bene qua. Va bene proprio. Capa, meglio così, lui va così, allora, capito? L'antenna neanche si vede, capito? Sembra che non ne ho di baracchino. Prima ve la piace il capotto, ma non si fa niente. Diciamo che è completa la vispulla e quindi tu mi incroci e manco la vede. Ascolta, non è un antennone. È una PLC 800, capito? La PLC 800 ed è coperta dallo scooter. La conosco, della Sigman, la conosco bene. Gappa, va. Siamo la 2001, l'ho levata perché troppo lunga, mi toccavo gli alberi, i fuggioli, capito? Quindi, aggiunto, anche lì ne aveva già stata pure la capota per antenna e mi ho comprato questa PLC 800, è vero, va bene. Buonasera Luca, adesso ne è uscita un'altra, anzi buongiorno, mi sono sbagliato, perdono. Adesso è uscita la 48 Turbo Midland che è molto buona come antenna. Tu prendi Luca. Buongiorno a tutti, perché Gianni si pone quello. Ciao Luca, buongiorno, ben sentito, vai. Niente, come stavo dicendo Antonio e a Gio Maria, l'antenna l'ho messa sotto allo spoiler e ho visto che sta uscendo bene anche se è coperto. Sono andato a salutarvi anche dove sono al computer, sto scaricando dei programmi che mi servono. Vi ascolto molto volentieri, riprendi tu Antonio. Par Roger. Stavo dicendo, no, quando l'ho provato un amico, non credevamo manco noi che era andasse così bene. È un'antenna nuova che sta facendo adesso la Midland, si chiama la Turbo 48 Midland. Va veramente bene qua, non credevamo neanche noi. Gappa, io mi sono comprato questa, la PLC 800, perché la conoscevo già, capito, come antenna. Ce l'avevo prima di avere la Turbo 2001 e andava bene. Quindi ho detto, adesso mi ripiazzo la PLC 800, che è più bassa e a me non toccava negli alberi, i fuggioli, queste. A me non toccava nulla, se è subito fatto con l'antenna bisogna che faccio le scuse. Ma quello lì non è molto grande, più o meno rimane come quella, dai. C'è una bella carica, già. Va bene. Ti prendi Giovanni? Ehi, vediamo un po' se Graziano è rientrato. Graziano? Graziano si sente. E così, va bene comunque, tipo, va benissimo. Oh, a me sta arrivando Santiago Nove, per cui va bene, tranquillo, pacifico. L'ho sentito, dice che l'apparecchio l'avevo bruciato, boh, non so per che cosa. L'ho sentito così in frequenza, non mi ricordo a chi, ma l'ho sentito, Comunque, adesso già va bene, per cui c'è l'antenna più bassa pure, sei tranquillo. Va benissimo, tipo. Gappa. Ma non lo so, Giovanni, cosa gli era successo a questa apparecchio. E che non fa vedere con Luigi Vulcani, era me... pure nella... Io stavo tornando dal viaggio, va. Ah, tutto il contratto oggi inteso via con il fumo. Mi sono confermato che non abbia trovato, pensavo che era riscaldamento, va. E invece era il guaracchino che c'è fumante sciuto. Forse vi abbia scaldato troppo, può darsi che c'era qualche contatto. È un attimo. la rubrica, quando batte poi non ci ferma più. E purtroppo capita che ci sono anche questi inconvenienti. Okay. Bene, meta, bene, meta. Allora sei sempre pura, sì, no, che poco. Già per il numero risolto, Giovanni. Ok, macello, vabbè, purtroppo bisogna anche andare, senti no, una brava, bisogna andare a Crufici, a macchia dritta e purtroppo bisogna farle, fa seccare la bagnotta, e se no come ci si passa? Poi dopo mattina subito cane, subito sono 10 minuti, e lo lascio a 3 minuti e rientra di notte. Lo so, purtroppo è un grosso sacrificio, ma è diversamente, vedi tu che travaglia a tutte cante la notte, e vedi tu che travaglia a denunzi, e se c'è a denunzi e rientra a denunzi, è così, Allora, ci ho fatto il suo travaglio, il suo cosa così, lui che ci ha fatto? E poi fa due soldi, pure io fatti, magari va a capace che si guadagna di più, ma prima, ohia. E altri sacrifici e poi va niente che a me ma posta con la terra chissà animale che abbia venduto l'ugame o caso che non me l'ha pagato nel manco qui ci ma posta con la terra a me grazie no allora abbia venduto a cappare io lui ci buono lì su caso l'ugame l'abbia venduto a chi ci ma pare dei primi tre candidati poi non me l'ha pagato di anzi ma mi ha detto ha tassato manco un paio di mesi perché ho buccato di lì a fare un passaggio anzi pure le contraddizioni arrivano a me e vedo la travella con un tocco un conto a terzi miei la travellenti e lei ha fatto di setta che a me è commercio ma ora il prezzo per era cancellato e fatturava in nome mio fatturava c'è rimane meno male che il tribunale nuovo gliel'ha condannato e non ha pagato quasi niente io. Non ho pagato niente, però ho rimesso il cambio. E un cambio da voi? Ah, addirittura fatto di un particolare, no? E abbia fatto da voi la denuncia alla Camera Commercio, che ha giù cancellato. Da voi ha giù fatto la denuncia alla Polizia Stradale, la Polizia alla Motorizzazione, la Polizia ai Carabinieri. E non riusciva a ciappare, la bisogna la Polizia o i Carabinieri di loro, erano tutti amici suoi, cazzo. Boh, strano, Cazzo, non ha mai bloccato il cambio. Allora conosciamo un poliziotto no, in pensione che la moglie trabagliava come moglie, ha fatto ragione come moglie, la moglie no, quindi la moglie dice al marito. E tutta il loco, il marito va a dire, dammi il libretto, a chi aveva fatto la coppia del libretto? Per aggiungare, il pizzo cazzolo ha acciappato la macchina, ferma da Branche via del Porto Torres. Sono andato a retirarmi un cambio pure io, 1,5 milioni di parcheggio. Allora sai cosa ti ho fatto? Ha giurito a Branca e tu cosa ti siete di suo cambio? Dici lo giambo. Allora io mi capo un cascione a chi un cascione mio era tutti centinato, no? No, ci capo un centinato dura, mi sono bussata alla vigna, mi sono bussata. E un resto ha già stato tutta bracca a fare un barchetto, pure qui si è già dovuto pagare. In pratica non l'hai pagato in denaro e l'hai pagato con lo cammino a te, si è sempre pagato l'hai. E allora i suoi delinquenti, da poi quale vendi? Infatti quando si vende un mezzo, no, fai un passaggio e basta. Fai un passaggio e basta, subito pure, se no non ti devo comandare. Era giusto, la seconda contro il saggio pagato, non si può niente. Poi fatturava Gian Maria, cazzo. Meno male, poi in tribunale, cazzo, ha voluto la firma. Cazzo, ha confrontato la firma. È mosso, a chi se lo aveva arrestato immediatamente. Poi anche è mosso. Gappa. Il caso che si dà di canisia. Tra poco dopo buffo, capita. E la resta ne va truffa. Era giusto che io ia, fa bene all'altro, vabbè, ormai, pazienza, è successo a me che sono particolare, cosa vuoi fare? E so cosa vuol dire, sacrificio che si fate, capito? Grossi sacrifici e paura, poi paduicini, via. Vabbè, riprende Antonio, riprende. Purtroppo, esiste quella gente lì, esiste. triste. Perché quando si vendono i mezzi, subito il passaggio di proprietà, non ne vuoi fare, arrangi, non te ne tolgo, rimane i ghibi. Gaffa, non come ne danni senza passaggio di proprietà, perché poi vedi, se un due dimmi che dobbiamo dire niente, se non funzioni, e poi tu sei di molte stagio Maria. Gaffa, sì. Ne ho sentito anch'io di queste storie strane. Troppo non sai mai accadrato, c'è gente inaffidabile, c'è. Bisogna stare molto attenti, tu hai quella cosa, fai quello che devi fare tra loro. Altrimenti figli fatteli dopo. Gaffa, proprio sì. Come è bella dare la ferma, la cosa che non dà la cucina. A chiaro poi, secondo me, si crea che l'attacca a Fibu. Se non lo prende a te, lo prende a un altro, non è finita, però passarci guai, no, assolutamente, non se ne parla neanche. Purtroppo tu vuoi aiutare una persona e la persona si comporta così. Sono sbagli che ci fanno, purtroppo. La gente è così, bisogna alla prima, no? Tu ci vuole la roba e così, altrimenti non te ne do. Purtroppo uno lo fa in buona fede, lo fa e la gente si comporta in questa maniera. Meno male che io la trova niente, allora la pago con me, no? Quando tracca. Cazzo che tu fatturava in nome mio, capito? E li contraddizioni a te, si firmava Pinna Gio Maria, capito? E pensi cazzo da voi, e tramite un altro amico, che è avvocato, ma così gli altri si fatti fare un certificato, non dice travagliente, da quando si travagliente, hai venduto due lucami, così è là, e poi c'è la prefettura, sono stato il prefettura, mi sarei già bucciato. E da lì mi ha fatto fare il vostro colpo, sarà portato a Nuoro, a chi addirittura mi voleva rifare un sbattimento, a me lo sbattimento, a chi lo voleva pagare. Allora ci faceva tutti questi documenti, ci hanno fatto l'udienza, mi comandava a me, anzi, siccome siete, mi aveva firmato una caccia bullata, come si pegliava tutte le responsabilità. Capito? Cazzo ci avvia a fare un passaggio, ma non pensavo che lui arrivi anche più particolare, ma che non conosceva troppo, capito? Però già gira, cazzo, è stato aggiungato un bel denaro. E da voi già l'hanno condannato e a me non mi hanno fatto niente, ho dovuto pagare tutto quanto è, meno male. Però se io non avevo avuto lui che c'ha caccia bullata e lui. E la dichiarazione da Cocome, come dicevo, acciappavo questo periodo di tutte queste contraddizioni, e travagliente mi aveva avuto condannato a me, invece no, state condannato a me, chiedo travagliente, e lo filmava, chi aveva pure la denuncia, come ci aveva fatto le carabinieri, la busta, tutti i canti, aveva fatto la difesa anche pure alla Camera di Commercio, capito? Insomma, un casino, un esito, una finita più. Però intanto la Gibolto un vedrà la Gibolto. E allora mi toccava la forza a demolire la macchina, a chi, guarda, la forza pure a terra, del suo presente. E inutile che ci ho fatto 15 anni di travaglio sopra, da continente qua, ma guadagnare anche sotto, e si deve mettere a mangiare questa animale, cazzo. Va, carità, ci abbiamo discorso, va, per carità, non me ne voglio più aumentare. Non ha ripreso, c'è anche a lui se ne ascolto. E te fai migliore, ciao. Ciao, Gippo, ci sentiamo alle prossime, buon procedimento allora. Ciao, ci sentiamo. Vai a tu. Ciao, Gippone, dai, ci sentiamo alle prossimine. Ciao. Vediamo un po' se rientra un Graziano, si ha ancora meglio dei banani. Grazie! Te ne senti nei banani? Addirittura. Ma la tutti si rimagna per gli altri salli, Io si rimagna. E poco rimagna, mi. Ti ha ripiato il bocco, io. Buonasera, Marchisio. Buongiorno, Marchisio. Ostinoso, sì, tu. Ma sono passato dai civili che vai. Ciao, Antonio, buonasera, buongiorno. Ciao, Giovanni, buon giorno anche per te, come la va? Bacchino, io la giusto un nuovo, della distrattoria. La riconosciuto subito. Buongiorno, come si va? Si tira avanti. Si tira avanti come i vecchietti e un giorno bene, non male stai mandando. E finché la barca va bisogna da sala andare, ma chi? E chi dà ragione? E voi tutti bene, sì? Maria, buongiorno. Buongiorno anche a lei, avanti. Salutori 73 da Castri 2, che vi super saluta, a tutta la ruota. Stiamo ascoltando, e Dio Maria, anche a me mi è capitato una storia simile. Mi l'ha fatto bagatta animale, mi l'ha fatto bagatta tanto, ma tanti non ne aveva. Ma pure il bel, chi ci sono amici brutti? E a me che mi ha andata e mi ha andato a pensare che c'è bullata, che mi aveva prima due, tutti chi. Che bisogna imparare queste cose, non fidarsi manco di più amico che si può sentire più di che amico. Sì, hai sentito comunque buona giornata. A te, lì sono insieme a Bacchisio e Antonio Molo. Sì, oggi l'accetto, eh. Oggi l'accetto perché sono arrivata, anche a me è capitata e ne sono sempre uscito. Però come hai detto tu, bisogna fidarsi. Perché la tua fattura è in una cosa, la macchina nuova, non è affatto passaggio, con un incidente, tutto a casa, Gio Marino. Un macello veramente, ma vabbè, è andata così, non mi lamentavo più, alla fatica un preato che va bene, se siamo sopra, ma chi avanti attacca? Cosa attacchi? Buongiorno all'amico che è entrato, ben ascoltato. Cosa attacchi, Gio Marino? Nulla che va. Allora, ritorniamo all'aeroporto, tuo marito, la barca va. Spero che la barca cammina sempre, non si fermi mai però. Dai che ci ferma, siamo andati, cosa vuoi fare? Purtroppo così. Ogni cosa ha la sua fine, ma chi? Hai ragione. Purtroppo la vita è fatta di cose belle e di cose brutte. E così purtroppo non c'è niente da fare. Sempre va nel senso giusto. Da chi vuole anda sempre a rovescio e la vita è fatta tante cose. Capito me la situazione? Ah, sia tu! Break. Scappa. Purtroppo è così. Oggi mai. Troppo c'è gente brava e c'è gente di tutti. Avanti il break, Gianni. Buongiorno. Buongiorno a tutti, doppio lungo da questa parte. Allegria ragazzi, allegria. Sento parlando di queste cose. Purtroppo. Dopo sono cose un pochettino brutte. Beviamo. Beviamo. Ciao Gianni, buongiorno, ben ascoltato. Beviamo già, cosa che hai pensato? Che ho grido. Se spiegassi quello allora non ti più per vivere e ti lasci andare. No, io infatti adesso sto cercando l'officina che ritorna indietro gli anni. Mi hanno detto che c'è di una nuova lì in coso verso Calamascio. E se torna indietro gli anni, capito? E a quanti anni ti porta, Bacchi? No, io mi sto di almeno 40 anni, capito? Vabbè, io ce li ho già, quindi dovrei scendere a 30. Si fa benissimo, va. 18, 20. Manca. Ma io no, cioè, però io voglio andare a invece a sempre. Lui è, sì che la barca va. Intanto 73 l'ha giù fatti, da voi. Che va arrivato, ma io mi so che è arrivato. Allora bisogna fare là se ci fa arrivi. Giovanni. Mi sa che si è arrivati i parrigliani. Adesso proprio là, 73 così hai detto. Ecco sono pochi. E vabbè, non ci ne mandano, se da voi, come si ripiace in Fossia. E allora arrivo, io a fine il luogo. Ma manco chi si vuoi più, manco chi si vuoi più, e bisogna andare al risparmio. Oh, yeah, yeah. Avanti, l'amico, chi era? Buono, un momento, scusami, la distrazione. Qui la casa 2 che si cordializza, Ciao Gianni, ben ascoltato, io qui sto finendo con un altro apparecchio. Ci sono da ieri sera già ultimato, e poi ci sono tre che ne funzionano di questi. Niente, preghiamo sempre la salute di ormai in realtà e sono stato anagrafico. Riprendi Gianni col buongiorno, vai. Pagava, voglio anche a te, capito, là. E cosa vi stai facendo con questo apparecchio? Cosa c'è? Questo è l'altro apparecchio 123. Due li abbiamo messi a posto. Ieri sera mi sono messo a mettere a posto l'altro. Quattro ne ho in tutto. E a me mi piacciono perché li ho sempre a posto. Questo qui l'avevano modificato a farlo a 28 canali, ma hanno fatto... Lo stavo ritornando come era, e come era in origine. Niente, penso un pochettino che l'avevano anche toccato in AS e pigliava, si sta pigliando, come se ci sia gente in SCP, riprendi. Ecco. È stato un greco. Maria. Ok, ne approfitto là che devo chiudere, già mezzogiorno e tre. Per cui ne approfitto là, buona giornata a tutti e pranzo a tutti e ci sentiamo. Ma chi riprendi tu là, chiudo, saluto a tutti. Ok, ciao Giovanni, salutissimi, salutami il tuo cuore a. E se quando vai da compare Capito, salutami anche a compare Capito. Ok, detto il tolo, rimettiamo tutto per Gianni. Facciamo un battesimo, mi sentito anche a te, dai. E saluti anche a Antonio e a Gio Maria. Avanti, Bacchio, dove sei diretto o sei a Domo? No, sono a Domo, capito? Sono a Domo. Sono Station Fessa, a Bruni e Fesso. Ok, ma c'è stato uno che ha bussato poco fa, avanti. Sì, ecco, per un controllo, grazie. 5-9, vai. Grazie, buongiorno a tutti. Ciao, Massimiliano. Immaginati. Antonio. No, già si sente bene Massimiliano. Va benissimo. Parrogero, dai, stavo provando questo aggeggino qua. Si mette dicendo che è tutto Roger, chiudiamo il tutto. Buongiorno, Gianni, Antonio, Bacchisio, Capri 2, e poi lo so chi c'è, là. Ciao, ciao. Oh, c'è Gio Maria anche, dai. E allora ciao Massimiliano, dove sei diretto? A casa sono già. Dammi un controllino di radio di Santiago, già. Ma la radio è buona, prova a vedere avanti per Santiago. Vedi un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. Già vai bene, dai. 9, 15. 9 e 15? E allora tutto a Roger. Anche qua 9 e 15. Che apparecchio è quello lì, Massimiliano? Questo è un pace. 23. Oh, il 765. Quello vecchia era solo là. Chiama già. Positivo, ti ascolto, passo basso, Santiago 1, poi già sono in cuffia, allora ti ascolto. Io sto usando adesso il pace 1 degli pace 123, ne ho 4, credo che sia corto, e così, già sono buoni paratini, Massimiliano, comunque se ti serve c'ho gli schemi di quella roba lì. Da parroglio, sì, sì. Magari me lo fai avere tramite qualcuno, non so, via email. Ripetimi la sigla del pace che stai usando. 765. 765, sì, in questo schemario ci deve essere, perché c'ho tutti i vecchi schemari, cioè qui ci deve essere senz'altro. Io sto mettendo a posto questo, che era un pochettino incasinato, che ce l'aveva all'epoca, l'avevo aumentato a 28 canali, ma aveva fatto una porcheria, l'ho rimesso il sesto com'era. Riprendi Gianni. pagata, riporta l'originalità mia, vedrete. Quello è aeromodellismo che c'era al coso, all'ippodromo Pina. A Sumerio si è frabbinato. Oh, dai, scusate, riprendo io. Dai, per il momento vi saluto, che qua chiudo il tutto e ce la riascoltiamo a dopo se coincide. Un salutone a tutti, dai, ciao ciao. Ciao, Massimiliano, buon pranzo, ciao. Vatti. Io capo, ciao Massimiliano, buon pranzo, ci sentiamo. Alla prossima. Saluto al gigante. Ok. Antonio. Capa. Ciao Massimiliano, ci aspettiamo stasera o più tardi alle prossime. Ma chi? Oh, un bel coordinamento il giorno della festa. Parlando in PMR. No, ho capito, no. Ripetimi. Parlando in PMR il giorno della festa della Feroce. Ah, la festa della Feroce, sì. Beh, già mi stavo sentendo qualcuno, stava facendo un po' lo scemo. No, perché ascoltavi tu? Sì, mi stavo ascoltando. Quella banda non so se tu ce l'hai. Certo che ce l'ho. In effetti, baby. Ma ce l'ho già. Non è più a me. Esatto. Allora, ce l'ho. Come te lo faccio anche sentire? Capito. Ah, poco prendilo, dice quello là. Avanti, Cobra, che questo è un passo 123. Quanti anni ce li hai? Io ne ho uno di questi passi che dice così, forse più vicino di me. 40 anni ce l'ho. E anche io sceglievo una roba del genere. Una roba del genere ce li ho fatti anche io. Sono degli apparecchi, ce li ho quasi tutti i pagine, sono in quelli a sei canali. E poi avevo un altro, l'avevo prestato, quello addirittura era 40 canali, era piccolino, guarda, una bellezza, 143 mi sembra che era quello. L'ho prestato, non l'ho più tornato a vedere, ci ho avuto anche il Fidelcar, ma questi me li avevo conservati. Funziona bene il tuo pacchetto. Ottimo, ottimo. È il primo baracchino che ho avuto, però, il primo che ho comprato. L'ho comprato da Fusaro, quando Fusaro era in via Tempio, angolo via Armando Diaz. C'era un negoziante piccolino. L'avevo comprato lì. Mi ricordo che allora, con l'antenna della macchina, la Colibri e il baracchino, avevo speso 110.000 lire. E un 23A. Infatti io sono usato adesso pace 123A, pace 123A, poi c'ho pace 123, e ne sono usciti i pacchi di due tipi, io ho tutti i due tipi, praticamente fuori di quelli precisi, però dentro cambiano uno di questi e di questo, vedo come è fatto, ripresi. No, anche diverso fuori, se tu guardi lo speeder, il 123A c'ha lo speeder senza segmenti, c'ha solo le due corsie lunghe, invece l'altro c'ha i numeretti. Sì, no, mica più estetica sono precisi, cambia dentro, addirittura come costruito il circuito. Se un giorno ci contiamo che li farò vedere, comunque sto usando adesso il spazio 123A. 123A, solo che il mio adesso fa un difetto, sul 5 entra una radio. Oh, gigante. Gigante non vuoi più, da un giorno il gigante è diventato piccolino. Ciao, doppio rutto, anche a te. Qui, uomo. E chi è questo qui, c'è Claudio? Non offendere, non ti ho fatto male, ciao Bacchisi. Ciao, riconosciuto chi è? Poi io no, non so, ormai sono un po' di tempo che sono assente al baracchino. Fa parte di un giornalino, là, ti vuole aiutare. A parte di Gian Maria. Un giornalino che si leggeva la ragazza. No, non ci arrivo. Lascialo stare, che... Non saprò nulla, intanto non ci dici già. Fa parte del giornale, non andavo da Limbara, da mio Paolino. Allora, buon pugno, adesso mi ricordo, mi attivo. Sono buon pugno, lo senti. Ah, è che Walter questo qua. Falder. Ciao, buongiorno. Spero di vedere che il canale 5 entra la radio. Ma che meglio la frequenza sia stata. Io mi entro nella radio sul 123, ma proprio bello pulito pulito, eh. Capito già il Walter, e beh, come te la senti? Che l'altro giorno mi sono comunque che mezzo carriera fin macchina, ma poco mi si può risotto. Se ti ripeto devi accorto una giusta. Sai, per quello mi sono fermato. Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno. 123 l'ha sempre avuto come difetto, la maracchina che la splattere anche dai portatili, che è monocanale. Maracchino, quello di trasmissione rossa e l'eccezione giallo. Lo smitter che quando aveva un controllo aveva una mania di essere preciso, mettere l'occhio dentro lo smitter con la lente. Comunque ne sono stati venuti tanti. Andava sempre meglio il toccare 50-24 di quello. Ciao Massimiliano, ciao a tutti comunque. Hai sentito Valle, ogni tanto ci si gente. A tu, che apparecchio era il tuo, quello là? Questo qua, l'altro apparecchio che ho, quello che si è fermato lo smitter, l'unico è Washington, quello che tiene le base. Guarda, non è che ne hai il cambio di Washington, di quell'apparato lì, che dice che hai rotto lo spiccante, non è più la finta, perché mi piace un meglio l'apparato, ma c'ha, non è che c'è qualche apparato smontato o cosa da dare. Non ricordo, presente Washington ne ho 3 o 4, però non smontati, non credo. A visitare ogni tanto ci stai andando, sì. Gli apparecchi? Non c'ho tempo, questo è passato un periodo troppo impegnato, però ogni tanto scendo, cioè ogni tanto sono di giorno, anche poi sono sistemi d'allarme, tutte quelle cose posso andare in palla, però ci vado, Ma che io c'ho ancora, quando mi ha dato un toccai Gianni che era una vetrina, poi ho trovato uno ancora più meglio. Ancora più meglio? Più meglio assai. Di quello, quello era nuovo, nuovo, nuovo, mi fa. Lo so, non è uno che è più nuovo. Chi è l'altro amico che c'ha i due pace che con piacere noto che è appassionato? Buongiorno, come andiamo? L'ho portato fino in tempo, già ci conosciamo, una volta è venuto a trovarmi, tanto tempo fa che abbiamo fatto vedere il contact 25D alimentato a 13 volt in macchina, sono sempre due valve, ti rimetto il cambio. Mi sei preso da una lì. Ecco, hai visto anche il contact, ne ho una decina mi pare. Constat esercizio, un bel apparato, bello, lo smitter è proprio leggibile, lo ritarare per ora, ma c'è tanto che non si sovrileva la valvola, andava in tilt. Walter, se stiamo dicendo non è che c'è qualche cattalina, no? Cattalina ce l'ho uno, c'era il 6 canali, mi pare che ho quello. Quello è il capri 2, mi sembra. Anche cattalina, facciamo 6 canali, e poi il 23. C'era delle semie e cattalina. Forse non ce l'ho. Mezzo a quel marasma di radio, sono un po' aggressivo. C'ho delle semie, poi delle semie ne ho tanti. Proprio ne ho diversi. Già ce l'ho una decina. Sì, stavo dicendo qua, quindi a 23 Catalina non è altro di tre canali. Non me lo ricordo. Gigante. È la bambina. Allora, Mr. Walter, io ultimamente ho dato un apparato proprio sopra il lago. Un SBE 40 canali, il primo che avevano fatto che andava alla sintonia continua. La sintonia continua è il cambio, diciamo così, elettronico. Ma cosa voleva la USB 2 manopole? Eia. Vabbè, non era, quello si chiama, marcami, ce l'ho. Non è la sintonia continua, però. C'è 40 canali e sono, diciamo così, canali elettronici, come volevo chiamare, ci sono i due pulsanti, uno a destra e uno a sinistra, avanti e dietro. Sì, sì, sì, c'era quello lì, già ce l'ho, un altro, faccio vedere. Mi ha fatto bello uno, da base, il Catalina che aveva lo Smith, la LED sulla destra, era però classico come i soliti, con la manopola dei canali che era segnata in rosso, in arancione, quello lì mi manca, ne ho tantissimi a base, cioè il Trinidad terzo, il secondo, il primo, il Super Console, poi c'è anche quelli in Land, il console 6, il 5 e il 4 anche, e il console 2, tutti quelli ce l'ho tutti. Quello che dice invece Capri, non me lo ricordo, perché c'era un baracchino dell'SBA, si chiamava Capri appunto, il Capri dell'SBA 2, era 5 canali in AM, era del 73 come periodo. Capito? Poi tutti quei periodi sono usciti, anche il Catalina primo è uscito nel 73, poi gli altri sono tutti dopo 75, 76, 73, 77, quelli di 40 canali dopo 77. Mi costano solo perché prima nel 73, 74 massimo li trovavo i 23 canali. Sì, sì, erano tutti così, poi qualcuno pasticciava appunto, metteva in UFO. Poi non ci davano bene i quarti di frequenza, un casino. Oggi ovviamente per chi li colleziona è meglio averli intonsi e non toccati. Cioè si trovano, ogni tanto lo compro qualcuno. Quelli della SBA sono quelli, poi tricolano col microfono, col tasto rosso. Erano dei belli apparati, quelli. No, il microfono mi è rimasto. C'ho come funziona, quello col tasto rosso piccolino. Che dentro c'è un trasformatorino piccolino. Sì. C'erano diversi modelli, c'era uno che è molto più raro, e con il tasto rosso piccolino sulla destra e due tasti rossi, cioè il tasto rosso sulla sinistra e due tasti up down, con un display piccolino frontalmente, non si illuminava il rosso per i canali, però un po' di quelli un po' più recenti. Walter, gli apparecchi ne ha tanti belli. Ma ce n'è uno che a me piace particolarmente, ed è il DAC. Il DAC è così. E Walter lo sa. Ma non ce n'è, quello non lo conosce nessuno, è un grande apparato. Quando lo comprai l'ho pagato più di una parte HF ed è un baracchino. Quello è strepitoso come apparecchio. Però ogni baracchino ha il suo fascino, tutti quanti, anche perché poi bisogna parlare di baracchini con l'attività in 27 negli anni 70, 80 anche. Ti ricorda un po' i periodi che non c'erano, grazie a Dio, i cellulari, il periodo che i baracchini c'erano tutti, il periodo che era la moda, era trend, e poi il periodo di decadenza. Comunque il periodo meglio te li ricordo, anche perché era un modo di comunicare diverso e ti univa alla gente così vicina, lontana. Dunque ti ricorda un po' tutti quei periodi. Erano delle gran belle, erano una gran bella cosa. Poi, come quasi tutte le cose, poi hanno un ciclo che ha un'impennata e poi un calo. Però erano dei baracchini. È bello il DAC, ma è molto bello anche il Simba. Dove stai abitando adesso, Capri? Io abito a Muro, punta, e già ti sono fatti due incontri. Ah, io mi voglio attaccarlo, se si brucia da questo, si porta per gli amici pronti, allora non sapevamo sì, dietro su, tutti gli schemi dei vecchi apparati, Walter, se siete inventati un schema. Se mi serve, te lo dico, ma io già sono stato sempre pigro, più che cambiare un fusibile o saldare qualche saldatura non l'ho mai fatto. Non solo per pigrizia, anche per l'asinaggine. Dunque, non per cui è sempre meglio farlo fare uno competente. Non ne ho molti anch'io su CD, addirittura a scrivere gli apparati vecchi, quelli lì che ho. Ho preso il DAC, mi pare, ce l'ho su CD, tutti gli schemi, possibili modifiche, ma... E chi ne farà mai, chi li usa mai? Ogni tanto li accendo, ho fatto uno spazio sopra i macchini, ogni tanto metto lì li accendo. Ma sono davvero tanti, dunque non ci riesco. Io ho chiuso il piano anche originali e di uso la manutenzione, tutti nel piatto. Quelli sono belli, quelli non me li mettono tanti, e sono belli. C'era Muros, già c'è Giancarlo, il figlio di Carlo Carboni, circa 23, ti ricordi, capita Muros, dove era un attore. Con Giancarlo ci conosciamo bene, siamo amici con Giancarlo, infatti mi ha dato il corso per fare la patente, io però con la buona pressione, con gli scuola bussi, capito, a modo di essermi a Cagliari, ci ho conoscenti anche al ministero lì. E la parecchia dagli amatori sul foro, dalle strappe, la capitolata 6, purtroppo, come gli distributori non devo prendere della IAESU, sono l'attestato di SWL. Ne ho roba, solo che diciamo che ci riesco a prenderla, solo che devo andare via dalle l'esame perché faccio un lavoro complesso qua. E cosa suoni coi tu? Come? Cosa suoni coi tu? No, la zona con la comune. Ho capito, l'ho compreso, non ho compreso i più antichi come prima, ma no, ma sono tutte serie mentali, secondo me sei tu che non hai vanno il giallo più lungo, è come il bacchino gigante, siete fossilizzati così a cena il bacchino ogni tanto, è bello, a me fa piacere ogni tanto vedervi quattro fare quattro chiacchiere, non è che per due gradi, anzi, è più divertente qui molte volte, ma c'è l'alternativa che... è meglio utilizzare ogni tanto. Dovresti andare, ma Giancarlo non è che sia il padre di un attore, anche molto preparato. Giancarlo è preparato molto in elettronica, molto in informatica, non in elettronica, però non fa mai attività. È un orso, è una persona che non fa attività con nessuno, è sempre solo collegato una volta, due. Il padre dice che va in sistemi digitali, non si sente mai. Però già fa attività di Amurus, si è messo l'antenna, li puri, sta comprando apparecchiature già ne ha adesso. Infatti ho bisogno che c'è anche una buona antenna, e i puri ho visto, e non ci siamo messi d'accordo perché ho acquistato un coso, un gigante acquistato, ed è un uomo che ho fatto vedere, uno degli ultimi usciti della ICOM, N81, che poi si può collegare anche via satellite, mi ha detto lui, con questo gigante, glielo ho fatto vedere, mi ha detto, era un bel apparecchietto portatile, li prendi vai a girare. Capo. Ma perché non l'ho mai sentito comunque. Va bene, ma gigante. Saluto Daniele, perché è stato poco fa, buongiorno, che l'ho ascoltato. E questo ce l'hai tu, Walter, questo lo sto usando io adesso, forse ce l'hai anche tu. Non ce l'ho il video, dimmi. Multimode. Multimode? Sì che ce l'ho. Ce l'ho, addirittura quello che ho io ha la scrivina di 45 metri, non altro parlante. Questo è il Multimode 3. L'avevo comprato da Luigi Luca Bappicci, quello che ce l'hai più Roberto una volta. E in alto a destra ce l'ho, te l'ho detto, ce l'ho con presposti il CB piano, mi pare, e va in 45 metri, e non ha l'altro parlante interno perché non c'era spazio, se ce l'ho. Sì, poi non so dove si poteva attaccare, c'è un buchio di uscite dietro, non so a cosa servono, non lo so mai saputo. Ma... non ricordo, diciamo, che buh, non li uso, preferisco usare il tocca. Sky, mi piace anche lo Zodiac 5026, il Midland 398 B, l'HB23 che era per passare quel periodo, sono tanti. Antonio 1 Zodiac Walter a 12 canali, preciso a quello che state dicendo tu, al 5-2026, a quello che mi state dicendo tu, che c'ha tre pulsanti neri, si assomiglia a Tokai. Sì, cos'è base con l'altoparlante rotondo? Un attimo di barra mobile, me l'aveva dato Tino e ce l'ho sempre dopo di Zecca. La persona quale può essere? Non lo ricordo, io c'ho il Tokai, poi anche quello piccolino, piccolo, il micro si chiamava, il micro 27 da Tokai, che ha, se ne è una versione a 6 canali e una a 23. Io ce la seguo, uno di quei baracchini, lo ha fatto a Gino Fantuno, avevo dato all'epoca, micro mini, il microfono mi sembra che sia rimasto qui, piccolino piccolino. Sì, sì. Allora, se sono ancora durati, dove si sente già passo, mi piacciono sempre. Sì, a me fa sempre piacere, ma. HP23, io ho uno e non funziona. Allora si possono riparare. Si possono riparare, non è un problema. Solo che come stai dicendo tu, a tutti tutti voi, di questa una cosa, io ero qui così perché mi attento, però non più di tanto. Riprendi Gianni, noi stiamo facendo ping pong, tu già lo sai che non mi piace parlare di queste cose. C'è Gianni, nel frattempo è andato in bagno. Chi c'era? Massimiliano, che ha avuto la miele. Ci sono, ci sono. Riprendi tu Gianni. Walter, AV48 ancora ce l'hai? E quello che io ce l'ho. Ah, quello che usavo prima io? Sì, sempre il furgone sarà. Brava, brava, non lo prendi, no? No, però tutto modificato, io volevo così. E sto cercando uno di quelli. E Gigino Vulcano era il re di quelle cose. Lo so, io ce l'ho il 48, ce l'ho, però non volevo toccare il mio, che è nuovo. Vabbè, quelle modifiche non le crea la rovina, non rimane originale. E poi non conviene perché ti compri un Cobra, un apparecchio più performante sicuramente di quello. Lo so, ma adesso vediamo dai, cosa fare. Oh vabbè, già c'ho questo, ma non lo posso mettere in macchina, no? Metti quello lì, normale. Vabbè, adesso dicendo, questo sto usando adesso. Ah, questo cos'è, quello grande? Questo è il 14. Somiglia a casa, un angolo. Devi tampare più di uno. Brava, brava, anda bene. Vabbè, dai, riprendete che io faccio un attimo di bianco, là. Ciao, ma niente, sono andato poco fa, non mi hai risposto. Ciao, ciao. Riprendete, dai. Ciao, Antonio, ero un attimo spostato, dai. Mi ero dimenticato anch'io. Vabbè, succede. Non c'è problema. Sembra che sei usando adesso. No. Sì. Tech 550 Power, l'M550 Power. E quelli nuovi non li conosco. Qualche nuovo Intech ce l'avrebbero, 500 FM, in FM. E poi quello da base, cioè, della Intech, mi pare, ma non ricordo come si chiama. Questo qua c'è fino alla MOSFET, già mi stupisce, più c'ha la scheda ECO, il Roger Beat, il filtro, è una bella radio, ce l'ho già 2 mesi e vedo che funziona perfettamente bene. Sono questo, già ce l'ho un paio in macchina, però io che poi lo modifichi, c'ho 400 canali, quello lì è. Dacelo, capito, simile, come si chiamava, l'Intech, vabbè, dacelo. leggera, va. Tutto completo. È un modello europeo. Il microfono suo originale, dell'apparecchio, l'eco originale dell'apparecchio, il bip originale. No, non abbiamo toccato niente. Non già lo conosco, il tasto rosso e il microfono, andavano i tastini colati, ma già me la paracca. Quello bello, ce l'avevo anch'io, simile, ce l'avevo e ce l'ho ancora. Ce l'avevo in una macchina, io usavo l'antista, non usavo mai. Quello appunto perché era più povero che altro. Ecco qua, questo è senza eco, senza niente. La modulazione mi ha detto tutti che è molto bella, che va bene. È meglio così. Sai cos'è che piace un po' a tutti l'effetto ecco? Allora, adesso qua è normalissimo, l'amplificazione sembra buona, mi sono ascoltato anch'io e va tutto a Rogers. Ecco? Avanti. Via. Buongiorno, buongiorno e buongiorno, dove arrivi il 2M? Chi sono? Cambio. Se diminuisci l'eco è meglio, se non cosa ne vogliamo mangiare. Non lo so chi sei. Falcone, Diabolic. Dai, ma ci ho detto Falcone, guarda. Non lo so, Pitto, ti sento... Vabbè, c'è stata qualche sottomodulazione, sovramodulazione, stesso segnale, dunque il mischi. No, aspetta un attimo. Ora meglio mi capisci? Sì, sono video. Buongiorno, ciao Antonio, buon morino. Ciao, ciao. Se non finisci questi microfoni amplificati, la è un disastro. Microfono amplificato, lui sono. No, è un attimo, Walter. In via mi sono la automobile. Questo è l'apparecchio amplificato, non il microfono. Il microfono si tiene, ha detto. L'abbiamo modificato nel sud Sardegna, Kappa. Vai Gigino di Vulcano. Caparrogero, sempre stessa convenienza, dai. Roberto rapido. Perché male esce? Preferisco la modulazione normale in FM o in AM. Un microfono normale. È troppo rumore, questo è il maracchino per far casino e basta. Esattamente, per fare brutto. No, oggi è tutto quanto dell'original. Con l'eco chiuso, no? Non so se facciamo bene. Così va benissimo. Kappa, c'era anche poco fa. Chi c'era tu? È entrato qualcun altro? Oltre volte c'è qualcuno? Sì. Ciao, grazie a Rufo, buongiorno, grazie. Ciao, Rufo. Come ti sento? Con gli orecchi, è bene, bene. del popolo, così, eh? Sì, ci sono anch'io. Già lo sento a Graziano perché si sta avvicinando in questa zona, dai. Ma ci vedi a casa tua domenica e oggi? Capito? Domenica e oggi a casa tua? In questa zona, sì, poi nelle altre zone non lo so. Sì, mi ricordavo che era martedì, l'Immacolata, non lo so, ma magari mi sto confondendo. Cava cava. Beh, sembra davvero una giornata, una domenica sembra. Positivo, è così, eh. E adesso mi dicevo, tutto aperto, tutto quanto aperto, quindi non se ne capisce nulla, là. Positivo. Riprende, Walter. Attento, un momento Falcone, cambio. Gianluca va in cuoio. Ehi, c'è un giorno, non c'è qua. Ma dicono che non ti abiterà solo sul paletto. Paletto Falcone. Sì, però c'è anche già il doppio rumba, chiesa gigante. E poi chi c'era ancora? Antonio, Daniele. Non li ho segnati, non ero l'ordine di stazione. E poi... ah, i capri di due da muro, salanti i capri. No, ti sbagli, Walter, guarda che Falcone avete a... dove avete a San Vito, dormono assieme. Moto, Falcone, vai. Questa moto si bolla, è macchina di Zipparo. Qualcuno sa qualcosa. Fabio Febbre, che fine ha fatto, San Vito? Chi va? Fabio Febbre. Fabio, come so anche l'Atenino, è un assente, è allucinante, ora voglio che restituire a Falchetto con l'Atenino, perché non è il mio. L'altro giorno gli ho prestato l'aspirapolvere con la bruna, che se non aspira la macchina, e non si è più visto, mi pare che la mano sacca la carbonara, sacca la giuria, a vedere se è vivo, morto, La sorte, io ho fatto anche lo stesso. Io l'ho visto, io l'ho piazzato io, non riuscivo neanche a accendere, mi ha detto no, ma forse me l'ha fatto vedere funzionante, però qua non accende nemmeno, sicuramente la diventatore non ce la fa, la gita si blocca un attimino, alla Cindy deve accendere per forza, un conto semanale non ce la fa in trasmissione, ma in ricezione deve accendere, oh, non è buono a collegare manco due fili. Acceso, abbiamo anche mollato e tutto. Le ho prestato l'antennino magnetico che tra parentesi mi hanno prestato e io devo anche restituire a Falchetto. Infatti mi sa tanto che ora salgo lì. Anzi, le faccio prima la massa, aspetta, adesso le faccio la massa a vedere. Perché intanto, cioè, non entra, è nulla. Ci ha comprato il carro, ho fatto comprare il carro, il PL. Non si interessa a rintracciare questo qua per salire su a fargli la calata, cosa vuoi dire, bro? Ma non l'ha pensato allora, ho capito. Sono a tenere il capoluogo, capito, perché ci sono quattro validotti collegati. E ho detto, ma sono fatti bene, sono isolati, ma la cosa ci deve essere qualcuno in corto. Ma sappi qual è meglio che non lo buttiamo tutto a quel cavo che è tutto a prolunghe, tutto a innesti così e lo mettiamo tutt'uno. Io ho fatto comprare quello fine, però quello buono da doppia fermatura, con la calza più folta là. E solo che se non tocca la ghiaccia questo qua, come facciamo a salire sul tetto? Ho detto, con il ricordo non dobbiamo salire sul tetto. Cosa hai fatto lasciato? È proprio così, dai vieni, voglio entrare, voglio modulare, ma se non ti dai da fare cosa? Io vado a suonare il campanello a questo tipo, che è un ingegnere delle ferrovie dello Stato, e non c'è quasi mai. Ha detto, sono andato una volta, mi ha risposto alla figlia, mi ha detto, ma non c'era, ma fatti dire quando c'è, se arriva alle 8:30 di sera, ma lì suona il campanello, e non voglio andare a disturbare, e allora tu le voglio modulare, lascia perdere. Poi ha speso i soldi per il cavo, i piedi buoni, l'ho fatto comprare. È allucinante, ma sai che lo chiamo, ora abbiamo la parte mia. Capri, Muros. C'è più Gianni Capri. Gianni, doppio root. Pachisio. Ah, io riprendo per passare in quelle di Walter. Ok, Walter, mi ha fatto piacere ascoltarti e fare quattro chiacchiere. Ci salutiamo e... spero di sentirci più presto anche in verticale. Se scendi qualche giorno da occupare, ci vediamo lì. Bene, saltissimo anche gli altri, Antonio e tutti quanti, non voglio elencare qualcuno, puoi dimenticarlo. Dunque, venite vi salutati tutti insieme e Bacchigio vi saluta augurandovi buona giornata e passa in QRD. Bye bye, Walter, vai. Ciao Bacchigio, ma Pallino lo sta combinando? Pallino è sempre in giro, ho visto con la banchieri che non si è fermo al bar, mi sono fermo da Graziella a prendere il caffè e è passato lui. E se devo scendere a trovarlo in questi giorni, perché sono da parecchio che non vado a trovarlo oggi in campagna. Sempre domani, dopodomani, sempre rinviando e mai ci sono riuscito. È sempre già fatta male in guardone. Sempre lì dietro al fornitore, abita lì adesso, è fisso. Beh, qua non farà niente, ci avrà affittato tutto. Che aveva affittato e venduto. Se ne frega, ha fatto bene. Almeno si è messo soldi in tasca e non sta a pagare le tasse. Con la pizzeria era sua lo stesso, era venuto tutto lì, aveva un sacco di cose. Quello è in affitto, quello è affittato. Ha fatto bene, è stato furbo, ma furbo, intelligente. No, c'è il bar lì adesso, la pizzeria ha fallito e ne avevano dato una bella stancata e dunque l'ha affittato per il bar, adesso c'è un bar e sembra che stia andando bene. Già c'è crisi, ma... E tutto c'è crisi. Ok, dai, Walter, alle prossime, ma chi se ti saluta cordialmente ancora, ciao ciao. Ciao Marchi, accendere tanto che tu, che io farò altrettanto, e ci vediamo. Appa. Ciao Marchi, ci sentiamo tutte le prossime, alle prossimine. Stai smasciando lo smitter, mi stai smasciando. Ciao Marchi. Ragazzi, riprendo io, anche io vado a fare la ricarica quotidiana. Un saluto generale a tutti e ce la riascoltiamo di migliori. Ciao, ciao, ciao. Ciao, adesso avessi uscito bene in radio. Ciao. Massimiliano, ciao, ci sentiamo più tardi alle prossime. Positivo, dai, a più tardi. Ciao Massimiliano. Roberto Quadrato, non c'è. Io ci sono, vi sto ascoltando da un po' comunque, buona giornata a tutti. Infatti, ma anche tu, ecco, su dove Gianni già c'è. Ciao Roberto, manca il tappalino. Buona giornata, no, stavo ascoltando il discorso delle radio, comunque il numero uno è sempre il DAC, secondo me. Ehi, non ce n'è Roberto, non ce n'è. Io ne ho uno in console, l'avevo pagato prima con la palpa KF. Ciao, c'è Daniele, infatti, me l'ho fatto rufianando a Daniele, ho detto a vedere se voleva darle il cambio di qualcosa, ma è intelligente se lo tiene. Sei chiaro. Ciao Robbe. Ciao a tutti, buongiorno. No, questa cosa non un po', dai, un interessante discorso, se va. Ormai, anche io sto andando a casa. Cosa volevo dire? Niente, vabbè, allora veramente, 105. Ti ho dato una frequenza natalino data dalla web. No, perché l'ho chiesto l'altro giorno, ma mi aveva dato qualcuna sbagliata, ma non erano quelle. Vi ho sentito comunque l'altro giorno, guardate, non mi ricordo esattamente dove eravate, c'era parte di un altro insegnante, ti ho sentito di sfuggita. Non lo so, vabbè, sai, 2 metri. I 2 metri in 40 ogni tanto la mattina, non so, poi mi torno a messo le HF in macchina, no? Ogni tanto qualche prova è più. Però è più di un mortuio, se non si muovono, adesso speravo nelle nuove leve, un'altra iniezione di persone che fanno attività, non c'è niente. Anche quell'animale di Platamona, di Garrotti dietro, che si chiama di Falcone, è sparito. Ma cosa, io non ho più sentito a Michele, che fine ha fatto? Ma giù a Platamona si è trasferito? No, mi stava a Platamona un periodo, per fatto. No, è sparito proprio, però è sparito Vittorio, sicuramente, è sparito anche lui. Poi lui è alla testa, cioè che si sono sbattuti insieme con Gianni Piorum, capito? Sì, probabilmente. Comunque questo probabilmente non sarà proprio per me, manca questo lo utilizzare adesso, il posto 0893. Passami di bene, Roberto. Ho finito il telefono, saluto anche a Roberto Quadrato, se mi ascolta. Gabba, comunque niente, guardate sta casa fuori Sassari, quando rientra mi chiama, gabba. Lo salve, io ho salutato il generale, non mi ricordo chi c'è la roba, già non ti spaventare, gli abbiamo scattato. No, scattato, tu non stai scattando, io hanno il verme dentro, beh, non vi fa ragionare bene, capito? Si fissano così. Però è come Bertoldo, sono come Bertoldo. Nel senso che cosa, loro sono per la radio. Va bene, comunque. Va bene lo stesso. Allora, Fabio Febbre, dove è? E poi quella anche una posizione micidiale. Ah, c'è quello lì, sta lì è micidiale come posizione, Si difende di brutto, tutto campo aperto, qua, fanculo al rientro del palo ascolta. Ascolta, Marta, ma dove sei? Qua in coordinate del Monte Rosello o giù? No, sono qua. Qua che mi ha detto. Stavo guardando il segnalito, capo. Non avete più fatto quel lavoro, non sapevi. Ma se non va a suonare il campanello, questo ingegnere. Dice che la volta che è andato c'è la fila, tomba, bonce, rientra quasi sempre alle 9. Non ne ha nessuna intenzione a mi pare. Ma poi adesso gli ho piazzato quell'antennino di Falchetto. Ma hai sentito là in tutti questi giorni? Ma forse perché allora va a parlare con l'antennino così. Beh, se la fa lasciare la fida, la chiave, cosa ci vuole? Cazzo, clienti. Si vede che deve entrare a casa di questo? Eia, questo qua ha acquistato tutto sopra, capito? Era tipo senitore, così nero c'aveva il suo pezzo. Questo qua ha detto quanto volete, tot. Ha pagato a tutti, è diventato proprietario, si è messo il cancello e non è tra più di giuro. Vabbè, ma il tetto deve far accedere in ogni caso. Quello sì, ma infatti ti ho detto se tu lo chiedi ti fa entrare, non è che stai entrando ogni giorno, no? Entri una volta, facciamo quello che dobbiamo fare e tu sei a posto, capito? Perché l'antenna c'è già, mettiamo il cavo nuovo e via, sei a posto, abbiamo fatto comprare 50 metri. Quello che in più, diciamo, mette a mezzo al panino, non ha lavoro, quello. Non te ne sono mai rimanito. Quanto volevo dire, cavo fine, è stato quello grosso. Quello grosso costava troppo qua, capito? Quindi tanto non deve caricare nulla. Anche se gli dura 10 anni, a andare a San fra 10 anni, tanto fra 10 anni è marcia l'antenna, perché c'è già 10 anni. No, l'antenna ce l'ho io 35 anni, dunque fregata. Sì, no, già. Cioè, non mi mancano un po' di radiali, bisogna cercare le cornacchie che se le hanno portate via. Va bene lo stesso, anche senza tagliare quell'antenna, per quella posizione, per quello che deve fare, per il tipo di utilizzo che fa, non entra mai, non è. Comunque, bisogna, quando mette il piede, bisogna lo facciamo bene a farglielo vulcanizzare, una storia vulcanizzante, se no ogni volta c'è questi problemi, fascette, in modo che sia un po' ordinato, ma va bene. Natalino, che fine ha fatto Gianni? Sta entrando, solo che gli aveva giunti a casa a pranzo, quindi ha detto che doveva tornare un po' presto. Siamo andati a vedere la manifestazione romanismo che c'è forse in funzione, al coso all'ippodromo. Non ho capito. Qualche danno ci avevano fatto, sì. Uno ne ho sbarrato di aereo e c'è anche un po' vento, ha fatto una manovra errata, il vento l'ha aiutato, si è fatto parare di pulita. Mamma, da buttare. Disperato era il padrone, disperato, 1200 euro costava quell'aereo. Ciao. Fare gli auguri. E lo stanno. Beh, fare le auguri alla regista. Perché? Ma quali giorni? No, è che si chiama Eleonora Maria Immacolata. Pagano. Avanti, chi è rimasto? Antoine. K. Ciao Salve, dai, ci sentiamo dopo. Devo chiedere, Walter, come ti arrivo in quella zona? 9:10. Fa. Già va bene, io sono qua in zona di Lima Delta. Sì, signore, quello più forte è già nel 9:60. Siamo, quanti metri siamo già? 500 metri. No, la linea d'aria sono 100 metri. La linea d'aria sono 100 metri, siamo vicini. No, di più sono. Di più. E io vado dalla battimobile, come sto uscendo? 9:15. Sì, vabbè, là. Tutto sommato c'è da accontentare, capo. A più dopo, saluto i circolari, se no quando ritorno a casa non ci siete, riprendetevi tutti salutati. E buone feste, capa. Va, capa, grazie, salve, grazie. Buone feste, speriamo che passa bene per le feste. Salve, la bravi così? E io, le feste, va bene, il gesso me lo levano il 18. Anzi, in un anno e mezzo, tre volte ingessato la stessa mano, Walter, già lo sai, no, la mano destra. Grazie a voi, è vero che dicono 203, adesso come me lo levano uscirò sempre con la mano in tasca, capo. Perché qua non capisco un capo, vai al vero. Come parecchia esci? Prima di Natale già te lo tolgo, sì. Sì, il 18. Ma no, quello che mi stia la molla, se dovevo essere a Trabacco, da mio fratello, invece purtroppo in ritrovazione col gesso non è che sia tanto bello, ti vengono lì e chiudo il locale subito. Le leggi che mettono così. Non c'è anche una cosa giusta, non è igienico, no? Senza veramente lavorare col gesso in cucina, no? Non buono. Ma più dopo. Ciao, salve, sentiamo. Buon carico. E a me i numici mi tolgono i tolgoni. Ma che tu, malattia, sì? Ho infortunio. Mi hanno operato, però. Mi dispiace. Punti, dove ti hanno operato? Menisco, legamenti e via dicendo. Molto. No, legato. Sono venuto dal furgone, guarda, stavo scaricando un missile di anguri e vuoto, la pompa se l'ha tirato da giù, mi ha fatto un effetto molla, ci sono caduto dentro, ho fatto canestro. Caretta, allora detto, c'è un incidente che è allucinante. Mi prendi da me. Sì, a Gianni ormai c'è una certa età, devi stare attento a queste cose già, devi comportarti bene, certe cose non le puoi più fare, devi uscire con la sciarpa la notte. E si vede, mi fa cupo tutto. E una certa età, entra se ti senti si giovane dentro, poi se c'è 50 anni non fa niente. Allora guarda il più vecchio di me, cosa devi dire? Infatti io scrivo la sciarpa la notte, non so anche lo scarico a lui. Devi fare i pesi già. E poi tutto piano, più lento. Parliamo di, io posso dare, ma lascia perdere. Fai quel poco che riesci a fare, tranquillo. Riserva le forze per quello che vuoi pensare. Giusto. È giusto che sia così. Ma non tutti i principali parlano così. Dove sei? State trovando. Muoviti che ci trovo a caricare. Come fa a fare piano? Sì. Non è così. Non è così. Ma lì è stata una disgrazia, per fatto noi. Per carità. Tu dica la tua sorella, falla ragionare. Mi fa un bel male, cazzo. Oh, ho patito dolori allucinanti. Non pensavo che una rottura parziale di un legamento ti desse certe certi dolori. La notte da gridare, non potevo muovere, sembrava sboccolata la gamba, io che sembrava sboccolata. Mi sono sentito male, sono sentito. E poi alla fine si sono accorti, dopo aver fatto tante fare tante ecografie, io ho fatto una risonanza, sono accorti che c'era il menisco rotto. Praticamente proprio completamente una lesione di terzo grado. E sono andato al Ghera, che l'avevano detto che quello che mi avevano fatto fare era tutto zubitido. Dice, qua ci vuole l'operazione. Chiaramente. Che adesso sono fatti? Ma uno, aspetta un secondo, ripeti, non bene, già sento. Devo fare una cosa. Ma ti ricordi cosa ti avevo detto dall'inizio? Di andare al Ghero, ma me l'ha detto molta gente di andare al Ghero. Il problema è che sia dall'infortunio sia dall'ospedale civile mi hanno fatto fare solo l'ecografia. Poi, meno male che io penso per fare la risonanza, se no mi avrei tenuto la vita tutto questi dolori che ho, anche adesso è un po' cedo la verità. Ha detto dall'inizio, io non sono un medico, però ho esperienza, nel senso che per questo ne abbiamo visto decine di queste cose. La prima cosa che fare è la risonanza magnetica, solo con quello riesci a vedere qualcosa, quando ci sono parti molli, se non vedi niente. Lo so. Marco, io sono dottore, ma ne ho sentito parecchie, mi hanno detto che a Sassari sono cani, fede che si operazioni e anche facendone altre, che hanno lasciato un vegetto zoppa, buccia mare, quel braccio che non lo muove. A Sassari sono molto bravi per la mano, se tu vai al policlinico c'è uno esperto per la mano, però per il ginocchio devi andare all'Alghero, per il piede puoi andare anche a Sassari, però anche all'Alghero sono bravi, dipende da cosa devi fare, cioè ci sono gli specialisti che si puntano su un certo tipo di arto o di osso, per cui devi andare su quello che lavora su quella cosa lì, perché è utile andare su uno generico che fa un po' di tutto, però fa tutto un po' bene, devi trovare uno che faccia bene solo quella cosa lì. Beh, ortopedico, roba. Cioè l'ortopedico è il medico delle ossa, quindi tutte le parti delle ossa dovrebbe saperlo operare. Cosa vuol dire? Allora uno se ha un incidente c'ha più parti del genere, deve andare da una parte per fare una cosa e dall'altra per fare l'altra. Ognuno cerca di fare il suo campo. Signori, io vi saluto, dai, che è pronta a pappare, a mangiare, appena Carlino che si è entrato adesso, Roberto e De Gianni. A tutti Antonio a fare quel RT. Ciao Antonio, buon carico, dai, avanti, vai. Spesso al telefono. Fate Google, ti saluta anche al telefono. Roberto. Sì, Anto, dai, ci sentiamo, buona carica, buon tutto. Avanti, Natale. Buongiorno a tutti, ben sentiti. Ciao, Antonio. Buon corretti. Riprendi, Roberto. Io qua sento, quando state parlando voi, c'è una portante che vi schiaccia tutti quanti, cioè, compreso Walter, che attualmente è il più forte in questo momento. Schiaccia tutti, non so chi sia, sta dando colpi e vi annienta. E avanti, Natale, buongiorno anche a te, dai. Adesso diciamo a volte se c'è qualche apparecchietto da attaccare. Pilota si è salvato già. Da? Il pilota è salvato, sì. Pilota non ce n'era. Era un aeromodellismo di quelli che volano, però sarà pilota. Ma si è disperato da quello che è caduto l'aereo. Sono 1200 euro ogni volta che ne perdono uno. E io lo faccio una battuta, sorridendo, allora con il pilota se c'era l'altro, si è buttato per paracadute. Tutti i vostri casi del pilota fuscia in terra come terrorismo. Dopo l'hanno messo a fare lo speaker, con l'araccio, col megafono. Benvenuti a tutti quanti, non c'era manco l'umore di fare la presentazione, poverino. E allora purtroppo quegli affari lì quando cadono in terra non è che recuperi quando ci vabbè, forse qualche parte del motore o qualcosa del genere, se non prende il fuoco, come era il motore a scoppio o come la turbina? No, era di quelli a scoppio, era 3 ore che lo provava sul banco di prova prima, poi l'ha piazzato il motore, per essere tutti a pezzi, ha piazzato il motore, l'ha fatto girare con l'aereo e cose, e poi quando è toccato a lui è partito tranquillamente, è partito, ha fatto una virata, un colpo di vento, visto cadere di punta proprio Robert, si è frabbinato. Ma che tipo di aereo? Un aereo di quelli tipo biplano, prima guerra mondiale o più moderni? Tipo Piper, cose così? Era uno di quelli moderni, quelli in plastica, con le ali in plastica trasparente e cose. Poi ce n'erano dei belli, c'erano quelli tipo caccia, c'era il tornado là, quando 2 anni fa, perché c'erano le turbine, sembrava un aereo vero. Stavo tornando, io l'ho visto anche fermo da vicino, toccato, siamo andati alla volta, noi ci avevamo portato roba a lui, a far vedere, c'erano anche questi modelli di aerei, c'era un tornado, sarà stato 3 metri di grandezza, è una cosa allucinante, molto la turbina, ma quelli costano migliaia di euro quelli lì. Allo stadio della Torre non l'avevano fatto volare, hanno messo solo in moto per fare la pressione che c'aveva, perché c'è che hanno bisogno di una pista molto grande, ma quella dell'ippodromo sarebbe andata bene secondo me. Fanno volare. Non l'hanno fatto volare per quello, ma è una cosa che ti dicevo, come ha messo in moto, si sente come fa l'aereo vero, dai, come fa l'aereo vero. E pantaloni di questo tipo che l'ha messo in moto stavano volando, tu devi vedere, sembrava che ci fosse un vento maestrale. Ah, quell'aereo lì, se stiamo parlando di questo aereo, perché conosco la persona, quello fa più di 600 km orari, quasi quanto un jet di questi di linea che utilizziamo normalmente con i passeggeri. È una cosa da paura, infatti ci vogliono spazi enormi dove non ci sia pubblico, perché se sbaglia appena appena la manovra o qualcosa, in un attimo va a finire sopra la gente e ammazzi quanto c'è. E una volta ero, io ci sono andato spesso, voglio dire, 2 anni fa, mi pare che c'era anche Natalino e Gigi Vulcano la volta. È caduto uno allo stadio della Torre, si è sbattuto la rete e stava per andare addosso alla gente. Ha sbagliato la mano, ma sicuramente non è riuscito a seguirlo. Poi è andato dove c'era una macchina parcheggiata, gente è caduto sopra una macchina e ha fatto danno. Cioè, si è fatto danno lui e ha fatto danno anche alla macchina. Gli arrosso rosso sono quelli che li fanno bene, che li fanno volare bene, perché c'è spazio. A Fertilia, prima in Fertilia, vicino all'aeroporto militare, lì c'è un'associazione, non so da cavolo, c'è un campo grande, e lì ho visto anche quelli a decollo verticale, bellissimi, c'è proprio belle, cioè lì fanno correre, perché c'è lo spazio, c'è una cosa enorme, per quelli lì hanno necessità di spazi grandi. No, quello che vuoi a me gli ricordi mi piacciono di più quanto sono belli. I ricordi riguarda oggi hanno fatto delle acrobazie con gli elicotteri, mi chiedeva Natalino, era da incacca. Sì, vabbè, le cose li vedi meglio perché ce l'hai più vicini, diciamo, riesci a manovrarli, fare dei movimenti che l'aereo non riuscirebbe a fare, però anche l'aereo non scherza quando lo vedi in alto, che fa le 360 gradi, il giro, come si chiama, l'avvitamento, eccetera, eccetera. Le cose più belle non perché ce l'hai sotto gli occhi. Ma questo elicottero era particolare, questo era un elicottero nuovo che aveva comprato e lo stava provando, era la prima volta che lo provava, quindi nuovo. Tu devi vedere che cosa tutto gli ha fatto fare, l'ha fatto danzare nell'aria, proprio danzare, una danza, l'ha messo dritto e l'ha fatto danzare, poi l'ha fatto mettere a testa in giù, l'ha fatto fare gli avvitamenti, gli ha fatto girare su se stesso, guarda, era una cosa bellissima, era bravissimo anche il pilota, E poi devi sapere anche manovrare, non è solo avere l'apparecchio, ci vuole esperienza e ore e ore di prove per farlo funzionare come deve funzionare. Roberto, ma che te lo dica? Ne ho comprato uno io, l'ho comprato per Marco. E io ho detto, prima di usarlo Marco, lo prendo io e lo provo e vediamo come fa. Fatto sta che prende, si alza il volo, questo qui l'ho portato di fronte al giro, ci sono i campi da tennis che hanno le reti per non uscire le palline anche sopra, capito? Sono coperti dalla rete. L'ho fatto volare fino a metà e stava volando bene, poi premo il pulsante per farla passare. Per il pulsante per farla passare questa cosa non funzionava, è andata in alto, in alto, sempre più in alto, ha toccato la rete, cade in terra, frabbinata. Tutti quanti mi hanno fatto l'applauso. Adesso quelli piccolini, vabbè, lì ci vuole anche telecomando, ci vogliono telecomandi seri, filtrati per i disturbi, perché non ti lo fanno apposta per disturbare questi radiocomandi, perché lavorano su frequenze radio, e se c'è una cosa molto limitata, arriva una certa testa, magari quello che c'è vicino col baracchino, con qualunque altra cosa, entra l'armonica sulla frequenza e non riesce più a manovrare, è già successo, mi hanno molte persone che conosco. E c'era un pezzo che lo facevano apposta, andavano al quadrato quando correvano le macchine, te lo ricordo. Sì, sì, non lo so, infatti ci vogliono apparecchi professionali, cose particolari, dai, se tu usi questi giocattolini, molte volte sono tipo i walkie-talkie, ti sposti e non pigliano più, e così sono questi ricevitori che hanno i trasmettitori dentro questo apparato. E ho detto che funzionava sul canale 4, dicevo, mi ricordo piccolino che riusciva a parlare con qualcuno, non mi ricordo chi era, però con qualcuno parlava. Avanti, l'altra... Oh, scusa, già, un altro. Non siamo aperti, ma ci sentiamo dopo, che pronto. Ciao, ciao a tutti. Ciao Roberto, mi gioca su Sato, come l'hai detto, voglio dire la successiva, che cosa? Va bene, ciao, buon pranzo Roberto, ci sentiamo. Ehi. Avanti, Valdo. Beh, sono arrabbiato con te perché ha fatto cadere due aerei. Sono contento. Ah, beh, componi, audio. Stavo mettendo la portante. Ma tu? No, quando stavano volando con gli aerei, lui era, li faceva cadere. E adesso vengono i carabinieri di Arzara a Casale a prenderti. Meno male, così andranno a fare. A Casale all'Asi non vengono. A Balassaio, il Gopero. A Tie, lo Sinus. Allora, la prossima che va per l'aereo, con binocolo di obiettivi da fare qua. C'ho due binocoli in macchina già. E cosa stai facendo? Guardo. Vediamo tutti che sta pagando per favore. Tali? Uia. Bisogna buscarli con gli elicotteri e ce ne andiamo a farli girare. Ehi, qua. Chi si dirige lì? Allora Gianni, Roberto vi saluto. È quasi pronto. Va bene, dai, va, ci sentiamo allora. Buon carica e buon tutto, siamo qua, quando vuoi entrare, non siamo sempre sul 5, siamo sempre sul 21 di solito, ma ogni tanto quando sente gente ci si ferma, una spazzolata, siamo qua, fatti vedere, fatti sentire come vuoi. C'è problema, ci sentiamo, quando ne vuoi già passo. Tanto un giro di manopola vi trovo la tua parte, non è che sia 21, 10 o 5, e qua ogni tanto entra più gente, allora si forma più una ruota, però ci sono troppi camionisti qua. Va bene, ciao. Ciao Walter, ci sentiamo. No, vabbè, giro di festa, non c'è nessuno, siete camionisti. Avanti. Che è rimasto, Tatalino. Ciao Walter, non so fare. Allora siete venuti, stavo facendo qualcosa. Ciao Tatalino. E ci sentiamo. E lo prendo mica barato. che no, siamo detto di subraccinito. E avanti, chi è che ha mangiato scaglione? Indovinello. Che ha mangiato questa pesa? Oh, non avete capito, sono a casa che sto prendendo un fagottino, stanno a casa la mia ragazza a mangiare. Ah. Non è ancora pronto, sto aspettando che finisca di cucinare. La vagava. Due succini, dai. No, non ci sono i succini, e se no non avrei portato a mangiare da casa. Mio suocero è a Cagliari, mia suocera sta lavorando, quindi va a fare compagnia di lavoro, mangiamo assieme. Vabbè, fate il pranzetto romano, con la cabina. Dai, che bello. Chi è stato? Io ci sono rimasto. C'è Tattalino, c'era anche Pompuno. Eh beh, Tattalino, buongiorno. Ciao, Capompuno, guarda la chiusa. E la pagava. Adesso guarda, mi faccio un pisolino io, la faccio anche nel vuoto. Tanto mangiato, mangiato. Ma prima devi fare il routino, se ti fa male. E beh, arrivo, la palice a posto? Sì, già a posto, Ma, la stai usando? No, ce l'ha ancora quella persona. Ah, gabba gabba. Qua ce ne mettiamo in cucina, mi prendi già. Ehi, ehi, ehi. Ehi, vabbè, vabbè. Ha letto di passare la ristorante, quindi ha fatto il tutto. Vabbè, ma se l'ho impegnato stamattina, chiamalo così in un altro momento, no? Non c'è prezzo. La vagava. Comunque, visto, non esce con 100 watt quando ci metti un attare, se ci metti i finali esce così. Ma guarda, ma anche Alessio, quello. E vabbè, vi ripremo già andare i finali, quando è il momento. Ma già basta così, che già di tutti, va bene così. E infatti, tanto per già c'è questo qui, questo giocattolo qua. Avanza, avanza. Babbo, io sto andando a mandicare. Vi saluto tutti, vi auguro un buon pranzo anche a voi. Tante buona digestione, buona nanna. Io ho finito. Ciao, ci sentiamo. Ciao, già. Ciao a tutti, là. Me ne vado anch'io e mi faccio un pisolino alle prossime. Miau, miau. Ho sentito a A Franco la radio nuova, minchia. A pompa, pompa, pompa. E cosa? A Franco, con la radio nuova. Prendiamo un'altra radio, bella, pompa, pompa. E che radio è? Non so che apparecchio è, ma pompa un bel. Cava gara. Tu sei sullo zero. Sullo zero di più proprio con la scala. Tu guarda, quanti volte lo scendo adesso? 5, 4, quanti ne davo? Ho preso di via 5, no, questo impact. Mi era da 12. Con l'ufficio, guarda. Sentiamo dopo, andiamo a mangiare. Chi ha ricoperato? Allora, dai, ci sentiamo più tardi, va.